Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un tifoso del Chievo e mercoledì scorso ero allo stadio per Chievo-Inter. Io sto dalla parte di Mario. Premetto che non ho sentito insulti razzisti, altrimenti me ne sarei andato immediatamente, ma i fischi sono stati troppi. Capisco che un giocatore possa risultare antipatico, ma fischiarlo dall'inizio alla fine, a volte senza motivo, mi sembra troppo. Evidentemente anche noi, pubblico del Chievo, anche se solo verbalmente, siamo peggiorati. E se anche il pubblico del Chievo inizia a fare queste figure, allora vuol proprio dire che in generale siamo alla frutta. Luca. Sono un giovane 67enne e vorrei intervenire sull'argomento Ballotelli, Chievo-Verona. Ho lavorato per anni in Africa, dove ho intrattenuto rapporti di vera amicizia e stima reciproca con gente di colore. Questo per farvi capire che non sono un becero razzista. Mercoledì ero allo stadio a vedere Chievo-Inter. Bellissimo spettacolo di folla, un quinto di tifosi veronesi e quattro quinti di interisti. Balotelli, per me, è un giovane viziato o poco intelligente. Io propendo più per la seconda ipotesi e il colore della pelle non c'entra niente, perché è riuscito a far stizzire, solo per un attimo, il pubblico del Chievo, che è il più inglese d'Italia. I suoi atteggiamenti guasconeschi, che tendono ad irridere non solo l'avversario, ma chiunque altro, pubblico, compagni di squadra, eccetera, denotano una scarsa intelligenza. Per questo penso che, nonostante i suoi indubbi mezzi tecnici, non diventerà mai un campione. Ditemi se non c'è mai stato un campione che non abbia accomunato ai mezzi tecnici una vivida intelligenza. E non ditemi che è solo questione di età. Ve lo ricordate Rivera quando aveva 18 anni? Un'altra cosa, tutti i giornalisti, radio e TV, fanno scandalo per i bu che si è preso Balotelli. Credetemi, non per il colore della pelle. Ma nessuno, dico nessuno, ha citato il fatto che il nostro giocatore lusiano, anche lui di colore, è uscito prima di Balotelli e si è preso un coro di bu 5 volte superiore a quelli che poi avrebbe preso il suo avversario. Perché questa discriminazione dei media nei confronti del nostro campione? Forse perché siamo di provincia? Carlino da Verona. Mercoledì ero allo stadio Bente Godi a vedere Chievo-Inter. Era da moltissimo tempo che non andavo allo stadio e dopo questa esperienza non credo di tornarci molto presto. Innanzitutto la fatiscenza dello stadio, veramente incredibile. Per non parlare dei famosi controlli per entrare, assolutamente zero. Potevo entrare con coltelli, petardi e nessuno avrebbe detto nulla. Ma soprattutto la mancanza di sportività tra il pubblico. Allo stadio vanno solo tifosi e non sportivi. Questo è il problema. Non c'è cultura. Claudio. Questi giorni di festa ho avuto modo di passarli a Barcellona con la mia famiglia e un nutrito gruppo di amici. Con noi c'erano almeno 5 ragazzini e con loro abbiamo deciso di visitare lo stadio del Barcellona con annessa visita al museo e giro nello stadio che anche vuoto ha il suo fascino. E visto che la sera si giocava a Barcellona-Villarreal, abbiamo preso anche i biglietti per la partita. Noi papà sulle prime eravamo un poco preoccupati, ma non potevamo fare a meno di vedere orde di famigliole, ragazzini e tanti altri con sulle sciarpette gialle del Villarreal che giravano indisturbati, anzi, fraternizzavano con i tifosi padroni di casa. Abbiamo preso posto in uno stadio ordinatissimo, abbiamo intonato l'ino del Barcellona e poi la partita senza scoppi, fumi, urla. La polizia era all'esterno e dentro non si vedevano i settori come le curve riservati a questo o a quella tifoseria. Tant'è che alla fine non c'è il solito annuncio che la tifoseria ospite è pregata di attendere per guadagnarsi l'uscita. Durante il secondo tempo, però, l'arbitro commette un errore a sfavore del Barcellona e allora tutto lo stadio non ha fatto altro che tirare fuori i fazzoletti bianchi e sventolarli in segno di disapprovazione. La partita è finita 1-1. Ibra si è mangiato un gol incredibile. La squadra avversaria ha mancato un paio di occasioni e tutti hanno preso sulle loro cose e via a casa. Non è che gli altri sono sempre meglio di noi, ma in questo caso sono stato felice di poter fare assistere a questo spettacolo i miei figli. Hanno potuto vedere come dovrebbe essere una giornata allo stadio, una giornata di divertimento, felicità e sport. Danilo. Da noi i media invidiano gli altri paesi che secondo loro sarebbero messi meglio dell'Italia, specialmente la Germania. I tedeschi, al contrario, ci invidiano per le nostre condizioni. Ho a che fare con la Germania dal 1956, dove però ho vissuto soltanto 10 anni e ho anche creato la mia famiglia. In Germania ho ancora una ventina di parenti stretti, tutti tedeschi, cognati, cognate, nipoti, pronipoti, cugini e ancora tanti amici e colleghi ed ex subalterni. Sono in contatto continuo con loro e sono al corrente della situazione. Qui si dice che la busta paga dei tedeschi è più pesante della nostra. Ebbene, come paga lorda corrisponde a verità, ma quando si va a fare la spesa, il bottegaio pretende la busta al netto e non al lordo. Da allora, ossia dai tempi in cui vivevo in Germania, non è cambiato molto, tranne nel 1961, quando l'avvocato Agnelli ha introdotto la tredicesima e il TFR per i vari stabilimenti Fiat tedeschi per equipararli a quelli italiani. Vi potete immaginare quanti improperi si è preso Agnelli da tutti i datori di lavoro che avrebbero fatto anche senza? Infatti questi privilegi, da noi normali diritti acquisiti, là sono ancora facoltativi. Dopo aver lavorato per 2 anni nella Fiat tedesca, sono passato a una ditta di elettronica e in 10 anni ho sempre percepito soltanto 12 mensilità, niente TFR e come detrazioni il 49% del lordo. Con moglie e 3 figli a carico, percepivo assegni familiari di 13.000 lire ogni 2 mesi. A 65 anni ho cominciato a ricevere la pensione tedesca per soli 12 mesi, ma in 6 anni ho avuto un aumento di ben 6 euro. Per il sindacato metalmeccanico, la quota mensile di 3 marchi al mese veniva trattenuta in busta, ma la Fiat versava solo 2,50 marchi. 50 centesimi rimanevano per la tracciabilità dell'iscritto. In 10 anni non c'era mai stato uno sciopero, poiché il sindacato unico e unito risolveva tutto a tavolino con i datori di lavoro. Altrimenti avrebbe dovuto risarcire i lavoratori per le ore perse e anche in caso di cassa integrazione, il sindacato compensa la mancanza dell'integrazione governativa per raggiungere il mensile originale. Non per niente noi abbiamo la triade sindacale più ricca del mondo, con oltre 33 milioni di euro al mese, coi Prodest. Ogni giorno si parla di tagli vari, ma nessuno parla dei tagli ai 100 miliardi di sprechi ogni anno. È peccato, perché eliminarli sarebbe a costo zero. È dimostrabile che eliminare uno spreco non è un sacrificio o una rinuncia, ma un guadagno. Peccato che in Italia questo non interessi a nessuno. Purtroppo leggiamo poco e non siamo al corrente di come stanno le cose altrove. Mauro, provincia di Reggio Emilia. Quando sento dire che il nostro paese è fra i più virtuosi in tema di disoccupazione, mi viene da sorridere, pensando a quanta gente alle 10 del mattino bighellona nel centro della mia città o ne riempie i caffè. Allora mi viene un dubbio. Non sarebbe più onesto ricomprendere fra i disoccupati, o meglio non occupati, anche coloro che per nulla anziani sono già in pensione, come pure i tanti che, seppure in esubero, risultano almeno formalmente ancora dipendenti della propria azienda in quanto destinatari di ammortizzatori sociali? Allora probabilmente risulteremmo tutt'altro che virtuosi rispetto ai nostri partner europei. Non mi pare dubbio che, in quanto a pensionamenti precoci, siamo i migliori. Nella provincia in cui vivo, un cittadino maggiorenne su 2 è pensionato. Come pure per quel che riguarda il camuffamento dei licenziamenti che le modifiche tecnologiche impongono a tutto il mondo industrializzato. Non è un mistero per nessuno che, cambiando periodicamente tipo di ammortizzatore sociale, si può mantenere artificialmente in vita un rapporto di lavoro per anni e anni, ed è quanto sta accadendo in svariate aziende italiane. Forse vale ormai la pena di ripensare in modo meno ipocrita al futuro lavorativo di questo paese. L'automazione dei processi espunge sempre più gente dal sistema produttivo. Basti pensare a cosa sanno fare i robot della Fiat e quanti lavoratori hanno sostituito. Il terziario fa quello che può per riassorbire, ma al di là della crisi, per i fattori strutturali, un bel numero di persone sono destinate a rimanere senza lavoro. È obbligatorio, quindi, rivisitare seriamente e soprattutto senza demagogia il sistema di sicurezza sociale, a patto di imporre contemporaneamente l'utilizzo di queste forze lavoro in servizi di vera pubblica utilità e non certo lo scherzetto dei lavoratori socialmente utili che è andato avanti per anni. In sostanza, io Stato ti do un salario minimo garantito che, abolendo gli altri ammortizzatori di lungo periodo, penso possa essere di costo vicino allo zero, ma tu vieni a fare la maschera nei musei e negli altri luoghi con forte attività culturale, in modo da poterli tenere aperti tutto l'anno, invogliando il turismo. Oppure vieni davanti alle scuole a controllare l'entrata e l'uscita dei ragazzini per evitare che vengano avvicinati dagli spacciatori. O ancora tu, che prima operavi nel campo edile, insieme ad altri tuoi colleghi sfortunati, vai a rappezzare e dipingere le facciate dei palazzi pubblici e via dicendo. Così non si creeranno drammi sociali e rischi di ordine pubblico e, dall'altra parte, si miglioreranno i servizi per la collettività. Purtroppo però da noi le cose più ragionevoli sono anche le più difficili da realizzare. Ferruccio. Gentile direttore, la mia mail fa riferimento alla riflessione inviata recentemente dall'ascoltatore mio omonimo Claudio Di Trento a proposito della questione sull'importanza della famiglia. Dalle sue parole mi sembra chiaro che sia cattolico. Lo sono anch'io e come tale mi trovo d'accordo con lui sulla necessità di sostenere l'istituzione familiare. C'è però un particolare che trovo molto infelice in ciò che scrive, e cioè quando lamenta il fatto che l'evento spagnolo di sostegno alla famiglia è passato in sordina e che secondo lui si sarebbe data molta più enfasi se si fosse trattato di una campagna contro l'omofobia. Forse Claudio si dimentica che se oggigiorno c'è bisogno di campagne contro l'omofobia, è perché nella storia non sono le famiglie delle persone per bene ad avere subito persecuzioni e discriminazioni, ma altre categorie, e tra di esse proprio quella degli omosessuali. E a questo proposito vorrei richiamare alla mente l'olocausto dei gay, spesso dimenticato, che ha accompagnato quello di zingari, comunisti ed ebrei. Claudio, provincia di Torino. Cara Radio 24, scrivo a proposito del caso Vendola circa la identificazione del candidato di centrosinistra per le elezioni regionali in Puglia, che a me pare molto simile, se non nelle conclusioni, al caso veneto del governatore di centrodestra Galan. Anche il presidente Galan ha fatto molto bene, è molto stimato ed amato dai suoi concittadini, addirittura fa parte del partito di maggioranza, ma considerazioni esclusivamente politiche hanno reso opportuna una diversa candidatura. Nonostante la mano tesa di PD e UDC, il presidente Galan, dopo qualche riflessione ad alta voce, ha accettato la decisione del suo partito e sicuramente ne sarà ricompensato, come sarebbe avvenuto anche per Vendola. A me sembra che Vendola o sta vivendo una crisi di identificazione con la sua carica o sta consapevolmente cercando di indebolire il PD, anche a costo di compromettere il risultato delle prossime elezioni. Maria Teresa. Leggendo vari servizi sulle alleanze tra le coalizioni per le prossime elezioni regionali di marzo, ho ritrovato, per quel che ho compreso, un'ulteriore conferma delle caratteristiche ballerine dell'UDC. Il leader Casini sostiene di aver messo dei paletti ben precisi, escludendo dai suoi alleati i leghisti e i dipietristi dell'Italia dei Valori. Scrutando tra le varie regioni, leggo che l'UDC sta scegliendo in queste settimane le varie scarpe da provare, una volta la destra, una volta la sinistra, una volta con il tacco e una senza, secondo le stagioni o le occasioni. In alcune aree si allea con il PDL, in altre con il PD. Forse da qualche parte l'UDC correrà sola, verso l'ignoto, aggiungo io. Non ho mai trovato nel partito degli ex DC una solida posizione decisionista o drastica, ma sempre, da decenni, un'eccessiva apertura verso tutte le situazioni che possono fare comodo. Come si usa dire, si tengono i piedi in più scarpe. Io credo che l'elettore di centro abbia come peculiarità l'incertezza, il timore di esporsi troppo, la mancanza di grinta, la preoccupazione di offendere o di andare contro ai principi cristiani. Insomma, io immagino l'elettore dell'UDC come un cittadino che è sì moderato, ma che manca di coraggio, di audacia. E la storia non ha mai fatto passi avanti di rilievo senza l'audacia, senza l'arditezza. Coraggio, rutelliani, fuori un po' di forza d'animo, fuori gli ormoni maschili, siete uomini veri per una volta. Marco. Se le merci prodotte in Cina con costi cinesi da ditte e marche internazionali vengono poi rivendute a prezzi italiani, come se fossero prodotti fatti in Italia con costi italiani, il risultato è che pochi si arricchiscono enormemente e moltissimi, oltre a non avere vantaggi come consumatori, perdono anche i posti di lavoro, diventando sempre più poveri, dato che devono rincorrere il modello di produzione cinese per abbassare il costo del lavoro a favore delle imprese multinazionali. Valdimiro. Caro direttore, si parla tanto di riforme, della necessità di rendere più moderno lo Stato, di migliorare i servizi per i cittadini. Ma in questi primi giorni dell'anno si parla poco, troppo poco, dell'evasione fiscale e della necessità di una vera riforma capace di far pagare le tasse a tutti. Se si attuasse questa riforma, sarebbe molto più facile attuare anche tutte le altre grazie ai maggiori fondi disponibili. Perché allora non si fa una vera battaglia contro l'evasione fiscale? Angela. Cara Angela, purtroppo non esistono soluzioni facili per problemi difficili e quello dell'evasione fiscale è un problema che non si può risolvere semplicemente con una nuova legge. Non tanto perché può sempre valere la massima fatta la legge, trovato l'inganno, quanto perché per ridurre al minimo l'evasione fiscale sono necessarie una serie di condizioni non certo facili da realizzare. Al primo posto va messo il senso di responsabilità dei cittadini, il sentire le tasse come un dovere morale e un obbligo sociale. Poi è necessario il riconoscimento che quanto noi versiamo allo Stato viene speso tutto a beneficio dei cittadini senza sprechi e senza clientele. E ancora è necessario che il prelievo fiscale sia moderato e non palesemente vessatorio. Ebbene, realizzare ora in Italia queste tre condizioni non sarà facile. Ma si può comunque cominciare dall'ultima, ridurre il peso del fisco su chi le tasse le paga veramente, poi migliorare i servizi pubblici e tagliare gli sprechi. Il far riconoscere le tasse come dovere morale sarà più difficile, addirittura impossibile, senza un sistema fiscale più equo e uno Stato più efficiente. Gentile direttore, ancora una volta vogliono farci credere che il costo della vita sia aumentato o stia aumentando secondo quanto stabilito unilateralmente dall'Istat. Nell'ultimo anno l'indice in oggetto è pari allo 0,8%, sempre secondo l'Istat. Ma vorrei qui citare alcuni tra gli aumenti che riguardano la maggior parte degli italiani. Nel novembre scorso, il prezzo della benzina è cresciuto tra il 3,5 e il 5,1% rispetto a novembre 2008. Le assicurazioni auto sono aumentate mediamente di uno 0,9% in un mese, non in un anno. Nell'ultimo anno del 5%. Nella settimana dal lunedì 28 dicembre 2009 a domenica 3 gennaio 2010, il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 2,3% rispetto alla settimana precedente. Veniamo alle autostrade. I rincari da inizio 2010 toccano punte superiori al 15%. Gli aumenti sono del 2,4% per Autostrade per l'Italia, che gestisce la principale rete autostradale italiana. E poi via via, Autostrada del Brennero 1,6%, Brescia-Padova 6,56%, Cisa 1,76%, Tangenziale di Napoli 2,17%, Autostrade Meridionali 1,43%, A4 Novara Est-Milano 15,83%, Torino-Novara Est 15,29%, solo per citare le maggiori. Ma non è finita qui. Il gas cresce del 2,8%, il canone RAI dell'1,4%. I biglietti ferroviari subiscono aumenti fino al 17,8%. In molte zone l'acqua potabile ha subito aumenti fino al 6%, i generi alimentari dell'1,8%. Un aumento del 3,7% ha riguardato sigarette e alcolici. Altri aumenti influenzeranno la frutta, i viaggi, i voli aerei, mutui e servizi bancari. Curioso è constatare che i giornali, uniti in un coro gioioso, si sono lasciati ingannare pubblicando tutti, chi più chi meno, questa notizia. Mai l'inflazione così bassa dal 1959. Anche i giornali dichiaratamente di sinistra hanno fatto bere alla classe operaia l'amara medicina. Perché qualche signore della commissione Istat non va in televisione a spiegare agli italiani come diamine fanno a ricavare lo 0,8% dai 900 articoli contenuti nel loro paniere? Ne vogliamo discutere? La CGIL che dice? Le associazioni dei consumatori che dicono? Vedo nelle piazze i no Berlusconi Day, ma non il no Istat Day. Voterei perfino il Partito Comunista se solo avesse dimostrato almeno una volta in 100 anni di aiutare le famiglie a basso reddito. Marco. Su tutti i media viene detto che nel progetto della Casa dello Studente dell'Aquila mancava un pilastro centrale, e perciò è crollata col terremoto. Ma il progetto era conforme alla normativa edilizia dell'epoca, che classificava l'Aquila con un basso rischio sismico, e sarebbe più corretto dire che la colpa è dell'errata classificazione del rischio sismico che ha permesso l'edificazione di quell'edificio che non ha resistito al sisma? Il progetto originario era stato fatto per costruire un magazzino di medicinali Ed è logico che i progettisti abbiano voluto creare un'area centrale libera da pilastri e distribuito il carico sugli altri, se questo era consentito dalle norme edilizie vigenti all'epoca. Ora infatti sono state adeguate. Invece tutti i media colpevolizzano i progettisti iniziali, forse perché così scagionano la pubblica amministrazione, l'università o altri che fino al 2008 sottovalutavano il rischio sismico dell'Aquila e hanno approvato con leggerezza il cambio di destinazione da magazzino a casa dello studente. Fabio. In merito al mancato attentato sulla Delta Airlines, volevo segnalarvi una lacuna sui controlli aerei. Prendo spesso l'aereo per lavoro, faccio prevalentemente linee europee e, come tutte le persone che prendono spesso l'aereo, ho una tessera raccolta miglia. Con questa tessera che ti identifica, è possibile oggi fare il check-in autonomamente, utilizzando alcune macchinette presenti negli aeroporti. Basta inserire la tessera, selezionare il volo e specificare solo bagaglio a mano per vedersi stampare la carta d'imbarco con la quale ci si può presentare ai controlli di sicurezza, poi al gate e quindi prendere l'aereo. Dov'è l'anomalia? Io ho sempre presentato un documento d'identità unito alla carta d'imbarco, ma mi rendevo conto che veniva controllato solo superficialmente. Davano più attenzione alla carta d'imbarco, così l'ultima volta, circa 2 settimane fa, ho provato a non presentare alcun documento. Sono andato con la mia carta miglia alle macchinette automatiche e ho fatto il check-in. Ho ottenuto la carta d'imbarco, mi sono presentato solamente con quella ai controlli di sicurezza, dove hanno controllato solo la carta e senza nessuna richiesta di documenti ho passato i controlli. Successivamente ho presentato solo la carta d'imbarco al gate e sono salito sull'aereo. In conclusione, sono riuscito a prendere un aereo senza presentare alcun documento, quindi al posto mio avrebbe potuto anche presentarsi qualcun altro. Mi sembra che questa sia una lacuna nelle procedure aeroportuali. In teoria in aereo potrebbe entrare qualcuno che magari è nella lista nera, utilizzando il nome di un altro. Francesco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci. Thank you.